così arriva anche il venerdì. E allora ben ritrovati insieme su Rock FM, parte l'appuntamento di Arden Daily con Marco Garavelli, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. E il saluto, oltre che a voi, va anche al nostro Simone, che ha preparato la biografia, la tracklist per i due album dal vivo veramente esplosivi, come ultimamente vi stiamo proponendo. Biografia e puntata che potremmo dedicarne diverse per queste due band, perché hanno pubblicato tantissimi... Beh, i Kiss sì, perché vi sto già dicendo che parleremo, che ascolteremo i Kiss in questa prima parte, che hanno pubblicato quanti album dal vivo? 4 doppi album. Invece l'altra band che ascolteremo nella seconda metà, i Metallica, hanno pubblicato delle B-side live e un cofanetto che poi prenderemo in esame, molto bello, molto importante. Allora, svelati i nomi delle due band, Kiss e Metallica. Partiamo, la scelta per i Kiss è caduta sul primo, il primo è live, quello più bello a mio avviso. Primo album dal vivo registrato durante il loro tour del 1975, tra il mese di marzo e quello di giugno, e pubblicato poi nello stesso anno dopo 3 album in studio. Arrivò al numero 9 in America, era un doppio vinile, e al numero 49 in Inghilterra. Dopo un paio di mesi arrivò al disco d'oro e all'inizio del 76 il disco di platino. Disco d'oro 500.000 copie vendute, disco di platino era 1 milione di copie vendute. Si tratta di un doppio LP composto da 16 tracce. Successivamente seguiranno altri 3 live a nome Live 2, Live 3, eccetera. L'ultimo risale al 2003 e vedeva l'utilizzo di un'orchestra. Andiamo ad ascoltare, partiamo con il primo brano? Allora, con l'intro classica, giustamente, andiamo a proporre Deus. Get off and get your ground on. Kiss da Kiss Alive One. Questa sera sono loro ad aprire la prima parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy. Abbiamo ascoltato Deuce, ricordiamo la line-up composta da Gene Simmons, voce basso, Paul Stanley, voce e chitarra ritmica, Ace Frehley, chitarra solista, e Peter Criss alla batteria. Formazione che rimarrà invariata sino al 1979. Il gruppo è stato fondato dal cantante bassista Gene Simmons e dall'altro cantante chitarrista Paul Stanley, che avevano insieme militato in una formazione che si chiamava Wicked Lester, e nel 72 decidono di cambiare, di creare una nuova band. Entrano così in formazione il batterista Peter Criss e, con l'ingresso del chitarrista Ace Frehley nel 1973, il nome viene cambiato nel celebre Kiss. Curiosità è che il logo della band è stato ideato proprio da Ace Frehley. Dopodiché scelgono un personaggio che li identifichi, e il proprio face painting, cioè il viso dipinto. Seguono diverse esibizioni dal vivo e la registrazione di alcuni demo che gli valgono un contratto con l'etichetta che si chiama Casablanca Records. Dopo Deuce, di nuovo un altro brano, questa volta andiamo sull'altra facciata, il motivo si intitola Cold Gin. Ah! Call Jean, Kiss da Alive One, una prima parte di questa nostra puntata di Hard and Heavy a loro dedicata, e io dedico anche questi 30 minuti a Max DeRio. So che appunto i Kiss sono sicuramente una delle sue band preferite. Abbiamo ascoltato Deuce, Call Jean, e continuiamo a parlare della storia di questa formazione. Esordio dopo aver firmato il contratto con la Casablanca Records, che arriva al 1974 con l'omonimo album. E c'è da dire che l'inizio non fu dei migliori. Infatti l'album si fermò all'87esima posizione nelle charts americane, e peggio va con il secondo album, Hotter Than Hell, che arriva solo al 100esimo posto. Ricordo che ancora tutt'oggi le classifiche americane degli album constano di 200 posizioni. Il primo successo arriva però finalmente con il terzo album. Siamo nel 1975, si intitola Dressed to Kill, raggiunge la 32esima posizione, gli valse un tour di supporto ai Rush ed alcune date di spalla ai Journey e ai Black Sabbath, che all'epoca erano più famosi di loro. Insomma, parte del successo fu anche dovuto allo spettacolo pirotecnico scenico che la band proponeva e presentava sul palco. Altro brano che andiamo a proporre, motivo che si intitola Strutter, da Kiss Alive One. Con Kiss Alive One, ricordo che è stato registrato in America nel tour da marzo a giugno del 1975, quindi si tratta di diverse serate poi assemblate e mixate insieme, non di un solo singolo show. Siamo arrivati al 1976 nella loro storia, quando pubblicano Destroyer, l'album che comincia, anzi che li porta decisamente al grande pubblico, al grande successo, arrivando all'undicesimo posto negli States, 22esimo in Inghilterra, quarto in Svezia. Ancor meglio andò con l'album seguente Love Gun. Visto il periodo d'oro, arriva il secondo lavoro dal vivo, altro doppio album che si intitola Alive 2, ed anche la prima loro raccolta, il primo loro Greatest Hits. Particolarità nel 1978 è la pubblicazione contemporanea di quattro album solisti dei quattro musicisti. E non contenti, registrano anche un film che ho visto, devo dire, non è il massimo della vita, però all'epoca sono andato al cinema a vederlo. Kiss Meets the Phantom in the Park, questo il titolo del film dove loro erano protagonisti. Nonostante il successo dell'album Dynasty del 1979, cominciano i primi malumori all'interno della band, tanto che in quell'anno il batterista Peter Criss ha suonato un solo brano ed è stato sostituito successivamente. Ritorniamo alla musica, altro classico che arriva come primo o secondo bis dei loro concerti ancora tutt'oggi, motivo che si intitola Rock and Roll All Night. Rock and roll all night. That party ever replay. Rock and Roll All Night, la formazione è quella dei Kiss che stiamo proponendo questa sera in Hard and Heavy da Alive One, con tanti successoni dopo Deuce, Strada, Cold Jean, Rock and Roll All Night, e ne abbiamo ancora. Continuiamo a parlare di loro, della loro storia. Abbiamo detto che viene sostituito Peter Criss, come sostituto fu scelto Eric Carr. Ma dopo la pubblicazione di Music from the Elder, un altro loro album, anche il chitarrista Ace Frehley lascia la band, e siamo nel 1982. Importante l'anno seguente, quando per la prima volta il gruppo suona con il volto senza il trucco, senza il loro classico make-up, al quale seguì l'album Lick It Up, con i quattro musicisti raffigurati in copertina a volto pulito, e così si presenteranno fino al 1996. Nell'anno 1984 entra in formazione il chitarrista solista Bruce Kulick, che ha militato nella band sino al 96, con il quale ha inciso 5 album in studio, il terzo album dal vivo intitolato Eli Free ed un altro album Unplugged registrato per il famoso programma di MTV, cioè Unplugged MTV. La formazione rimane stabile sino al 1991, quando purtroppo muore il batterista Eric Carr. Ritorniamo alla loro musica, uno degli ultimi brani, e poi concluderemo la storia della formazione. Andiamo a proporre ed ascoltare le note di questa canzone, Let Me Go Rock and Roll. Yeah. Let Me Go Rock and Roll, un brano che chiude questo doppio album Live 1 per la formazione dei Kiss, e anche noi siamo agli sgoccioli con la loro storia. Abbiamo detto purtroppo della scomparsa del batterista Eric Carr, il suo posto viene preso da Eric Singer, che a tutt'oggi è ancora il batterista della band. Con lui incidono nel 1992 il lavoro Revenge, seguito nel 96 da Carnival of Soul. Sempre nel 96 però la band ritorna alle origini, di nuovo con il volto pittato, oltre ad una reunion con la formazione originale, con la quale hanno registrato il loro ultimo album in studio, Psycho Circus, uscito nel lontano 1998. Attualmente, terminati poi tempi di reunion, dissapori e di nuovo litigi all'interno della band, attualmente abbiamo in formazione Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer alla chitarra, e alla batteria è ritornato Eric Singer. Questa è l'attuale lineup dei Kiss che questa sera abbiamo proposto con lo stupendo doppio album Alive One. Chiuso il primo... prima mezz'ora, il primo capitolo di Hard and Heavy dedicato allo stupendo doppio Kiss Alive One, annunciato alla seconda parte dedicata ad un'altra band esplosiva, Metallica. E questa sera andiamo a prendere in esame l'unico loro vero e proprio album live, e tra parentesi era uscito tempo fa in una confezione particolare, molto costosa. Era un cofanetto con 3 CD e 3 videocassette, all'epoca erano in VHS. Poi è stato ristampato di recente anche in DVD, doppio DVD e 3 CD, quindi è più semplice reperirlo. Il lavoro si intitolava Live Shit, Binge and Purge. È uscito nel 1993 dopo 5 album in studio e dopo 10 anni dall'esordio di Kill 'Em All. Vi ho già spiegato quanti erano i CD. Le serate erano legate a San Diego, Seattle e Mexico City, che sono appunto i luoghi in cui è stato registrato questo album live. La formazione: James Hetfield, voce chitarra, Kirk Hammett chitarra, Jason Newsted basso, Lars Ulrich batteria. Il primo brano che andiamo a proporre si intitola Master of Puppets. Quante volte l'avete cantata questa? Quante volte l'avete ascoltata? Master of Puppets per Metallica, The Live Shit, Binge and Purge, il loro triplo live album, triplo videocassette VHS, poi recentemente doppio DVD e 3 CD. Questa è la versione che stiamo proponendo questa sera. Abbiamo ascoltato appunto Master of Puppets. La storia inizia quando il batterista danese Lars Ulrich decide di lasciare la Danimarca nel 1980 a favore dell'America. La sua fu una decisione molto particolare, appunto. Se ne andò dalla Danimarca, andò a Los Angeles per trovare dei musicisti per suonare un metal ispirato da Saxon, Diamond Head e Motorhead. Questa sua decisione è un po' strana, perché dici, queste sono band che in Inghilterra andavano fortissimo, un po' meno in America. In America andavano di più formazioni come Kiss, ad esempio. E lì, a Los Angeles, Lars conosce James Hetfield. Siamo nel 1981. James Hetfield risponde ad un suo annuncio, un annuncio che Lars aveva messo su un giornale per cercare musicisti. La band che cercava musicisti erano i Leather Charm, cercavano appunto un batterista. Anche Lars, che era in questa band all'inizio, poi fu scartato. Quindi chiese a Hetfield se voleva formare insieme a lui una nuova band. Registrano una canzone che comparirà successivamente in una compilation. Per quanto riguarda invece il nome, c'è sempre lo zampino di Lars, dato che Metallica era uno dei nomi che il suo amico Ron Quintana aveva ideato per pubblicare una fanzine heavy metal. Così Lars convinse Quintana a scegliere invece di Metallica Metalmania per la fanzine e di lasciare a lui il nome che avrebbe classificato il gruppo, appunto questo dei Metallica. La lineup invece, c'è da segnalare che nella primissima formazione come secondo chitarrista c'era Dave Mustaine dei Megadeth, che però verrà licenziato subito in malo modo, sostituito da Kirk Hammett, che proveniva dagli Exodus. Curiosità riguarda la loro provenienza: è che la band fu creata a Los Angeles, ma si trasferì a San Francisco in occasione dell'entrata in formazione del bassista Cliff Burton, che pose questo trasferimento come unica condizione perché lui accettasse di entrare a far parte proprio dei Metallica. E così fu. Yeah. For Whom the Bell Tolls, dopo Master of Puppets, ricordiamo che la versione in studio di For Whom the Bell Tolls è nel secondo album Ride the Lightning del 1984. A livello di annate, nel 1983 la formazione è finalmente stabile, è decisamente la line-up giusta. Registrano 3 demo e arrivano poi all'esordio con l'album Kill 'Em All. Il successo fu immediato, seguì un tour da headliner con gli Emerald Saint. Dopo questo tour fu chiesto, questa è una cosa un po' particolare, fu chiesto al cantante John Bush degli Emerald Saint di entrare a far parte dei Metallica, ma lui rifiutò. La band allora continuò con la stessa medesima formazione. Seguirono altri 2 album di successo, registrati in Danimarca, quali Ride the Lightning dell'84 e soprattutto Master of Puppets dell'86, che raggiunse la 29esima posizione negli States e fu il loro primo disco di platino, più di 1 milione di copie vendute. Arriviamo purtroppo all'86, anno drammatico, perché la band il 27 settembre subisce purtroppo la scomparsa del bassista Cliff Burton. In effetti il tour bus della formazione, erano in tournée, si stavano trasferendo da una città all'altra, il tour bus sul quale viaggiavano in Svezia durante il loro tour europeo scivolò fuori strada. Cliff Burton venne sbalzato fuori e morì schiacciato dalle lamiere. Dopo solo un paio di giorni, su insistenza dei genitori di Cliff, la band procede alla ricerca di un nuovo bassista. E poi vi sapete com'è andò a finire, ve la racconterò tra breve perché ci fermiamo ancora. Diamo di nuovo spazio alla musica da questo triplo live shit Benjamin Purge. Andiamo ad ascoltare Enter Sandman. We'll be right back. versione originale, la sapete tutti, si trova sul Black Album, qui dal vivo con tanto di esplosioni varie. Enter Sandman con la seconda parte di Hard and Heavy di questa sera su Rock FM, tutta dedicata la seconda parte al live ufficiale dei Metallica. Abbiamo detto, purtroppo è parlato della scomparsa di Cliff Burton e la ricerca del suo sostituto. Ancora una volta, come in precedenza, quando vi citavo il fatto che hanno chiesto a John Bush degli Emerald Saint di entrare in formazione, anche questa volta chiedono al bassista Joey Vera degli Emerald Saint di entrare a far parte della band, ma anche questa volta ricevono il due di picche. Anche lui dice no, rimango nel mio gruppo, non mi va di entrare nei Metallica. Viene scelto allora dai Flotsam and Jetsam Jason Newsted. L'album in studio successivo è Injustice for All del 1988, che arrivò al numero 6 nelle classifiche americane, quarto in Inghilterra, quinto in Svezia e ottiene due dischi di platino. Curiosità legata a questo album è che furono nominati al Grammy Award come miglior heavy metal band dell'anno, ma vennero battuti dai Jethro Tull. Devo dire che i critici ne capiscono, Jethro Tull sono una band bravissima, top, però col metal, con l'heavy metal, non c'hanno proprio nulla a che vedere. Vabbè, questo è un aneddoto curioso, abbastanza famoso. Ci avviciniamo così all'omonimo album, conosciuto appunto come il Black Album del 91, che diventerà il loro più grande successo commerciale, tanto da aver raggiunto la posizione numero uno in Inghilterra, in America e in tantissimi altri paesi europei. Anche se il sound risultava sì pesante, ma in un certo senso ormai lontano dal thrash metal che aveva caratterizzato i primi album, cosa che sarà ancora più evidente coi lavori successivi, ma ci arriveremo. Andiamo invece ad ascoltare Whiplash, la cui versione in studio si trova nell'album di debutto Kill Em All dell'83 e fu anche il loro primo singolo. Yeah! Rush, questa l'estratto, uno dei vari estratti. Abbiamo ascoltato Master from the Belt All Center Seven, questa Whiplash dal vivo. Siamo alle ultime fasi della storia, della biografia della band, perché dopo Enter Set, dopo l'album Black Album, nel quale appunto si ritrova Enter Sandman e tantissimi altri singoli di successo, viene pubblicato questo Live Shit Binge and Purge nelle versioni che vi ho spiegato, cioè quella con tre e un cofanetto con tre videocassette e tre CD, e poi avviene quello che nessuno si sarebbe aspettato, cioè la band cambia completamente look, si taglia i capelli corti, cominciano a rilasciare dichiarazioni che parzialmente rinnegano il metal, tanto che l'album del 96, Load, si propone come un roccioso album di hard rock. Commercialmente la scelta è vincente, perché arrivano numero uno in Francia, Germania, Inghilterra, in America, però i loro fan di vecchia data rimangono delusi e li accusano di tradimento. Stessa sorte con il seguente Reload, che arriva tra le prime tre posizioni in tutta Europa, nonostante le pessime recensioni subite. La direzione musicale intrapresa spinge così il bassista Jason Newsted a lasciare il gruppo nel 2001. Attualmente lui collabora con i Voivod. Il suo posto è stato preso da Robert Trujillo, che ha in passato già suonato con Ozzy e Black Label Society. Nel 2003 è uscito l'ultimo album in studio, St. Anger. Ad oggi la band sta lavorando alle registrazioni del prossimo album. Nel frattempo, lo sapete, sono arrivati in Italia tante volte, molti di voi li avranno visti. E allora chiudo il capitolo di questa sera con il live di Metallica. Ringrazio lo sponsor Mariposa Dischi, Simone, il nostro autore, e voi che mi avete seguito con L'Ultimo Motivo. Si intitola The Four Horsemen. Un grazie a tutti voi, buona serata, a domani sera con la festa all'Alcatraz dei 17 anni di Rock FM. Ciao ciao!